Buongiorno Palestina, come ogni mercoledì alle 19 siamo qui a parlarvi di Palestina con le notizie che i media non vi danno. Iniziamo subito con la rassegna stampa di questa settimana e passo direttamente la parola a Claudio. Della rassegna stampa diamo i titoli, gli articoli li potete trovare poi con Google cercando sotto Amicizia Italo-Palestinese e Assopace Palestina. La settimana scorsa ha fatto il pieno l'affare del secolo di Trump, che di fatto legittima l'apartheid. Manifestazioni e presidi in tutta Europa e in America, con gruppi ebraici statunitensi che dicono no al ripristino dell'apartheid da parte di Israele. A Firenze il presidio sarà a Piazza Strozzi sabato 15, quindi non sabato prossimo, sabato fra 2 settimane, alle 16:30. Quindi Piazza Strozzi sabato 15 alle 16:30. Dati invece giornalistici, in Palestina, liberazione delle donne palestinesi dalla cultura patriarcale. Intervista a Miassar Ateyani, che è direttrice del Sindacato Generale delle Donne Palestinesi. A Hebron, coloni armati aggrediscono una famiglia palestinese, ferito l'uomo, danneggiata l'automobile. A Gaza, Israele sospende l'entrata di cemento in risposta a quelli che ha chiamato attacchi quotidiani dei palestinesi. In effetti era successo che Israele aveva aperto delle dighe inondando vasti tratti di terreni agricoli palestinesi, causando notevoli danni. In Europa, il Congresso ebraico europeo lancia una campagna contro l'antisemitismo, inteso come critica a Israele, come sempre. Ora, da notare che presidente del Congresso ebraico europeo è un certo Moshe Cantor, che è un miliardario russo-israeliano che, come altri oligarchi russi, fece fortuna nei primi anni del nuovo capitalismo della Russia, chiamato anche capitalismo gangster, in cui molti cittadini russi videro svanire i loro risparmi. Per venire alla trasmissione di oggi, questa è la terza che dedichiamo alla sanità nella Palestina occupata, con interviste a chi vi sta operando. La parola passa a Gianna adesso, che vi presenterà una persona molto speciale. Siamo qui ospiti in casa di Ave Mazzetti, un'assistente odontoiatrica che vive e lavora da anni a Viareggio in uno studio privato. E vi chiedo innanzitutto qual è la sua formazione e la sua specializzazione specifica in questo settore, e poi ovviamente lei ci parlerà anche della Palestina. Che studi hai fatto, Ave? Sì, intanto grazie di questo invito, di questa intervista che non mi aspettavo e lo faccio con piacere. E, diciamo che io sono di origini bolognesi, io sono nata a Bologna e vissuta a Bologna, ho studiato lì fino a 20 anni, poi mi sono trasferita a Napoli dove ho vissuto per 6 anni e lì mi sono laureata alla Federico II in lettere e filosofia con indirizzo socio-psicologico. Durante quel periodo, per mantenermi gli studi, ho lavorato in uno studio odontoiatrico privato in cui ho come assistente alla poltrona. E grazie a questi anni ho potuto lavorare e studiare in questo settore e diciamo è diventata diciamo, poi la mia professione definitiva, anche perché questo lavoro che faccio mi piace tantissimo. Ho finito naturalmente e concluso gli studi Però poi questa professione mi è rimasta dentro e lo faccio tuttora, sono quasi in pensione, con amore, come se fosse sempre il primo giorno. Da circa 38 anni, poi da Napoli mi sono trasferita a Viareggio e lì ho continuato questa mia professione che faccio appunto tutt'oggi e lavoro in uno studio privato a Viareggio. Niente, questa è la mia preparazione. Ecco, diciamo che in questi anni, poi questi anni, diciamo, non mi sono accontentata di lavorare semplicemente, ma ho fatto numerosi master e diciamo anche seminari, convegni, congressi, sempre nel campo odontoiatrico, sia come assistente, ma anche come appoggiando anche i medici, diciamo accompagnando i medici questi. E quindi ho raggiunto credo il massimo livello della mia professione. Infatti anche ora sono alla vigilia della pensione, sono al primo livello, diciamo, lavorativo, insomma, quello è il massimo che potevo ottenere. Quindi una grande passione per questo lavoro e una grande specializzazione anche poi alla fine, Sì, una diciamo, grande e grandi passione. soddisfazioni. Sì, questo è vero, questo è vero. A questo punto però ti chiediamo com'è stato, parliamo di Palestina, il tuo approccio con la Palestina in particolare, come sei venuta a conoscenza dei problemi della Palestina e poi come hai esteso questa tua passione, diciamo. Diciamo che l'interesse e la conoscenza della Palestina è nata 15 anni fa, oltre 15 anni fa. Per caso, in seguito a mie vicissitudini familiari abbastanza dolorose, una mia amica per aiutarmi mi disse: "Ma perché non intraprendi un viaggio in Libano e vai a conoscere e imparare quello che è la vita nei campi profughi in Palestina?" Voi sapete tutti che in Libano ci sono tantissimi campi profughi palestinesi. E ho fatto questo viaggio in Libano, quindi il mio primo viaggio non è stato proprio in Palestina vera e propria, ma in Libano. E poi ci sono andata anche l'anno dopo e da lì ho visto, diciamo, ho imparato a conoscere, diciamo, questo popolo, questo bellissimo popolo e le sofferenze di questo popolo, e da lì mi sono innamorata, sono partita e ancora oggi mi devo fermare. E poi negli anni successivi poi sono andata in Cisgiordania, ho fatto tantissimi viaggi della conoscenza e poi sono stata il viaggio più intenso e difficile nella striscia di Gaza, e che ho raggiunto 5 anni fa. E poi i miei viaggi poi della conoscenza sono continuati sempre nella West Bank e continuano tuttora. Quindi viaggi di conoscenza, grande passione anche per la Palestina, per il popolo palestinese, che hanno fatto a un certo punto scattare in te qualcos'altro, cioè non ti bastava più il viaggio di conoscenza. E quindi hai messo a disposizione la tua professionalità per questo popolo. Raccontaci. Sì, diciamo che a un certo punto della mia storia, diciamo, del mio vissuto con la Palestina, mi sono detta, visto le necessità e i bisogni, diciamo, che imparavo a conoscere durante questi viaggi, mi sono detta: ma perché non mettermi in gioco con quello che è il mio lavoro, quello che è la mia professione? In fondo, posso anche essere di aiuto e posso dare anche un contributo a questo popolo e quindi non fermarmi più ai viaggi della conoscenza, ma andare oltre. È stato questo che ha scattato in me. E lì ho potuto parlare con una persona che è bravissima, secondo me, che è Martina Luisi, figlia del dottor Stefano Luisi, il cardiochirurgo, che è presidente attuale del PCRF Italia. Martina lavora all'interno del PCRF, con lei mi sono diciamo aperta e le ho chiesto, dice: "Ma Martina, siccome voi fate tante missioni mediche, perché mi manca tanti, con tante specializzazioni, la cardiochirurgia, la neurochirurgia, eccetera, eccetera, tante patologie, mi manca l'odontoiatria. Perché non possiamo, diciamo, sviluppare questo progetto nel campo odontoiatrico, i cui bisogni, e me ne ero accorta nei viaggi della conoscenza, attraverso appunto vedere le persone, i bambini che parlano, eccetera, quindi vedevo anche necessità odontoiatriche, ho detto perché non portare avanti missioni anche odontoiatriche. Quindi hai colmato praticamente con la tua iniziativa una lacuna del PCRF che opera naturalmente già da diversi anni. Ecco, magari per chi non lo sa, se tu vuoi in brevi parole raccontare cos'è il PCRF. Sì, diciamo che Martina mi ha ascoltato e diciamo che lei mi ha fatto una proposta molto interessante di prendere visione attraverso un viaggio di quella che era un'equipe che già lavorava nell'odontoiatria e mi ha mandato sempre in Libano, a Beirut, in un ospedale palestinese dove faceva missioni odontoiatriche un odontoiatra americano. E da lì poi sono tornata, abbiamo fatto un punto della situazione e ho detto magari possiamo fare odontoiatria ambulatoriale invece che chirurgica, cioè quindi lavorare alla poltrona con i bambini svegli e quindi riuscire anche a fare una, diciamo, cure a più bambini, quindi una maggiore quantità di bambini curati. E effettivamente sì, odontoiatria, diciamo, era un aspetto che mancava al PCRF, però attraverso questi nuovi progetti che sono in essere da 2 anni, diciamo che questa, chiamiamola lacuna, ma insomma questa mancanza, diciamo, di specializzazione si sta veramente sviluppando in maniera molto ampia. Il PCRF è un'associazione ONLUS palestinese, che appunto si occupa di missioni medico-scientifiche, ecco, in Medio Oriente. È stata nata nel 1992 e fornisce naturalmente cure mediche gratuite. Diciamo che spendo una parola particolare poi sul PCRF Italia, che diciamo è nato grazie a Stefano Luisi. E quindi il PCRF è un'associazione di volontariato che è nata, il PCRF Italia, nel 1203, 200, no, Nel scusa, 2013. nel 2013. Nel 2013. E appunto si occupa, diciamo, di cardiochirurgia pediatrica, neurochirurgia, chirurgia plastica, endoscopia, respiratoria, chirurgia generale, odontoiatria, ora anche salute mentale. E ottiene contributi dalla Regione Toscana, dalla Chiesa Valdese e donazioni di singoli contribuenti. Quindi aiutate il PCRF. Niente, attualmente lavorano nel PCRF Italia circa 40 volontari. Ecco, 40 volontari, questa domanda, ma in che vengono dalla Toscana e poi in tutta Italia il numero sarà moltiplicato, diciamo, per un certo numero, perché ci sembrava che 40 fossero molto poche se fosse stata tutta l'Italia, ma giustamente. Allora, tu vai ogni 2 anni, ogni anno, quante volte vai in Palestina? Allora, da quando sono iniziate le missioni odontoiatriche, diciamo strutturate, io vado 2 volte l'anno. Di solito parto a ottobre e poi in aprile-maggio. Adesso la nuova missione che è già stata programmata, con la nuova missione partiamo il 27 di marzo e torniamo il 3 di aprile. Di solito chiaramente sono accompagnata da un dentista o una dentista e quindi e là lavoriamo. Andiamo a Nablus. Nablus, questa cittadina stupenda all'interno proprio della Cisgiordania, che è a 70 km da Gerusalemme, e lavoriamo in una struttura, diciamo, straordinaria, piccolina. Ospedale, No, no, non è un no, è ospedale. una, è un consultorio, come si dice, un piccolo consultorio dove c'è una piccola struttura medica che è formata da una stanza dove c'è appunto la poltrona odontoiatrica, quindi c'è la dottoressa Mariam Abdullah che è la dentista, una dottoressa diciamo di base, quindi fa le visite di salute generale e poi una biologa bravissima anche lei che fa le analisi. E praticamente è un piccolo centro della municipalità di Nablus, questo è importante, perché praticamente gli operatori medici, gli operatori sono stipendiati dal comune di Nablus e diciamo i pazienti che si rivolgono lì pagano un ticket, un po' come noi quando andiamo ai distretti Certo, sociosanitari, sì, quindi come come la nostra un distretto sociosanitario. sociosanitaria. Quindi io non lavoro in una struttura privata, ma lavoro in un distretto sociosanitario. Ecco, ma diciamo, a questo punto ci puoi dare qualche indicazione sulla qualità dell'assistenza appunto sanitaria palestinese? In questo caso, diciamo, l'autorità palestinese che fornisce questo servizio. Sì. I pazienti arrivano, devono pagare un ticket. Allora, sì, distinguiamo le due Sì, cose. certo. Allora, come è strutturato io ho chiesto a Mariam come è strutturata la loro organizzazione quando non ci siamo noi. Loro appunto, curano la popolazione di solito. Uno strato sociale basso perché Certo. pagano un ticket sanitario, un po' come da noi In relazione al loro introito, a quanto loro sì, possono. forniscono diciamo delle cure non specialistiche perché non ci sono specialisti, però è un primo approccio verso la salute e si rivolgono pazienti diciamo sia bambini ma anche adulti, donne, gravidanze, eccetera. Nella settimana invece che ci siamo noi come PCRF non pagano nulla, cioè tutti i bambini che curiamo dal punto di vista dentale non pagano assolutamente nulla. Ecco perché vengono soprattutto i bambini dei campi profughi, per esempio nella maggior parte, anche se distante, il campo di Balata, perché in quel momento non pagando nulla se lo possono venire. Molti strati della popolazione sono talmente poveri, soprattutto quelli che vivono nei campi, che non riescono neanche a pagare il ticket. E quindi quella settimana troviamo tantissima richiesta. Avete Quindi molti lavoriamo, pazienti sì, la lavoriamo settimana. praticamente senza respiro dalla mattina al tardo pomeriggio, orario continuato, insomma. Noi riusciamo in una settimana a curare circa 70 bambini, insomma non è poco perché lavoriamo Ogni tantissimo. volta che vai ti trovi quindi Sì. a dover. Poi quando sanno che arrivano i dentisti italiani, inizialmente erano un po' titubanti, ma ora che adesso siamo entrati nel loro cuore, eccetera, diciamo che adesso veramente Vi ci aspettano, sì. aspettano con Il primo grande giorno, quando arriviamo il gioia. sabato mattina, troviamo la sala d'attesa C'è piena. già Sì, la coda. c'è già la coda. Sì. Beh, questa cosa è molto bella, anche Molto se nello bello, sì. stesso Poi hanno tempo, però. tanta pazienza di aspettare, veramente, è veramente un carico umano che è non notevole. Cioè io A volte confronto la sala d'attesa dove lavoro io, che le mamme sono impazienti di qua di là, e poi invece la sala d'attesa che è più gente veramente brava, veramente con un'umanità che è veramente Eccezionale, indescrivibile. eccezionale, Sì, anche sì. perché poi i palestinesi sappiamo sono un popolo Abbiamo molto deciso di organizzare. Sì, tollerante, appunto. molto troppo, poi possiamo La dire. settimana si svolge così, perché partiamo il venerdì e torniamo di venerdì, perché il venerdì è il loro giorno di riposo, di preghiera, quindi usiamo il venerdì come viaggio. E arriviamo la sera, quindi il sabato mattina, quindi usiamo il loro calendario, non il nostro, e Certo. quindi per noi la domenica non esiste, insomma, noi la domenica Sì, per sì, sì. loro si lavora normalmente, e ripartiamo la settimana dopo con le nostre valigie vuote, di nuovo di venerdì, proprio perché è il loro È giorno di giorno di riposo riposo, e il venerdì è il sì, giorno della preghiera. sì, sì, sì. Ma mi domanda a questo punto, cioè ti domando, ma la vostra presenza è evidentemente, cioè, richiesta, è indispensabile, è molto efficace, molto efficiente. Ma al momento in cui voi ripartite, cioè l'ambulatorio rimane sguarnito, ci sono degli infermieri, ci sono dei medici palestinesi che vi diciamo, sostituiscono, anche se non diciamo, al 100% con la qualità del servizio che voi offrite invece in quella settimana. No, no, quando noi partiamo, ripartiamo e torniamo a casa, diciamo, il centro, continuano il loro lavoro. Mariam Abdullah è lì, come dentista, è lì, la biologa, come per fare, diciamo, le analisi, e lì anche la dottoressa di base per le varie visite. No, no, il centro continua, diciamo che il centro ci ospita. Ci Certo. ospita perché chiaramente noi siamo, cioè l'odontoiatria, che a volte viene considerata un po' una medicina di serie B, ma in effetti è molto complicata, cioè è molto, richiede tantissimi tipi di materiali, dai compositi alle frese, la sterilizzazione, il monouso, quindi è molto complicata. Quindi La no, strumentazione la portiamo c'è, noi. la portate voi. La Ah, portiamo ecco. noi. Sì, là troviamo la poltrona Sì. odontoiatrica, troviamo una sterilizzatrice piccolina, però ecco, diciamo che il senso di andare là è di andare là portando un aiuti, cioè se noi andiamo là per usare la loro roba non ha senso. Quindi noi andiamo là con le nostre valigie cariche di materiale. E Certo, offriamo, no, anzi, io quello che rimane lo lasciamo sempre ti ho lì. fatto questa domanda perché in un'intervista precedente, non so se con il famoso dottor Mirabile, lui ci ha puntualizzato il fatto che la strumentazione, almeno negli ospedali dove va lui, c'è, è anche molto, diciamo, insomma, efficiente e in ottimo stato. Ma quello che manca, il momento in cui lui riparte, è proprio personale che non è sufficientemente preparato, non è sufficientemente, diciamo, addestrato, ora non è il termine giusto, ma comunque per proseguire magari la cura dei bambini che lui si occupa di problemi respiratori e tutta un'altra storia, che devono comunque continuare ad avere una degenza più lunga. Ecco, io, la domanda era mirata in questo senso, ma forse nel caso della Allora, odontoiatria. Allora, odontoiatria. io devo dire questo, che quando sono partita pensavo là come vado Don Chisciotte, no? Vado là e insegno di qui, insegno di là. Devo dire che per quello che è la mia esperienza a Nablus, in questa struttura, devo dire che Mariam Abdullah è una dottoressa veramente eccezionale. Sia dal punto di vista umanitario, ma anche di preparazione. Cioè, quello che manca a Mariam sono i materiali, perché lei ha studiato a Jaffa, all'università, ed è veramente preparata. E vi dirò di più, che tante cose ce le ha insegnate lei. Quindi nel mio caso, devo dire, poi magari non farà chirurgia, ossea, implantologia, perché mancano i materiali, ragazzi, cioè manca questa roba qui. Ma dal punto di vista, diciamo, della preparazione, sono almeno sono preparate le università palestinesi, sono veramente valide, Eccellenti, sappiamo, eccellenti. sappiamo. Cioè la Palestina è uno degli stati, così lo considero, in cui il numero dei laureati, soprattutto donne, sono numerosissimi. Quindi questo concetto, questo stereotipo che la Palestina è un paese, no, gli mancano le risorse, gli vengono prese le risorse, ma le menti ci sono tantissimo. E quindi devo dire che Mariam è una dottoressa veramente brava, molto molto molto brava, e da lei ho imparato tanto, ho imparato tantissimo. Questo. Quindi, soprattutto la mancanza di materiale che potrebbe essere, diciamo, colmata, questa lacuna potrebbe essere colmata con dei finanziamenti più interessanti. Sospendiamo un attimo per un intervallo musicale e poi riprendiamo con delle domande. الصوت العالي بدي أقول بس الصوت صغير إن كان نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي أقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت Allora, Ave, quando tu vai in Palestina con il PCRF, sei, diciamo, una in trasferta, sei una libera professionista, oppure vai appunto con un accordo che ti consente quindi di essere, diciamo, presente lì, ma come se tu fossi, diciamo, a lavorare nel tuo lavoro quotidiano. Allora, io a questa risposta. In domanda rispondo sinceramente che sono una volontaria a tutto tondo, nel senso che quando vado in Palestina nelle missioni odontoiatriche io prendo le ferie, quindi mi assento dal mio lavoro e prendo le ferie e non sono assolutamente retribuita da nessun associazione, cioè non, da nessun'altra associazione, quindi sono volontaria e ed anzi, diciamo che contribuisco anche con, per i voli, per i costi del volo, perché appunto ritengo che sia doveroso da parte mia che aiutare il PCRF, perché la considero un'associazione molto seria e importante. Però ecco, sono una volontaria a mie spese, a tutto tondo, questo lo devo dire, lo dico anche con grande orgoglio. Beh sì, questo ti fa onore, diciamo, anche se effettivamente avrà un costo, una ricaduta sulla tua, diciamo, sul tuo menage. E infatti, dal punto di vista privato, rinuncio, spendo le mie ferie in queste cose, però sono cose, quando una persona ci crede in quello che fa, certo. E credo che sia giusto anche fare questo, sennò non ha senso vivere così di aria, insomma, di parole. Senti, i tuoi rapporti invece con le autorità sanitarie israeliane, come, se ci sono durante la tua settimana di lavoro o comunque che tu abbia avuto, diciamo, menzione dai pazienti a cui, insomma, pone le tue cure? Allora, per quanto riguarda le autorità israeliane, le distingo in due parti. Le autorità sanitarie, come mai fatto tu, non ho assolutamente contatti, e meno male, perché quando io arrivo all'aeroporto di Tel Aviv vengo prelevata fortunatamente da un autista palestinese, e entro subito, nel giro di un'ora e un quarto, entro subito in territorio palestinese, e quindi lascio il territorio israeliano ed entro in Cisgiordania. E lì ci vivo per una settimana, quindi non ho rapporti. Il problema invece, l'altro aspetto, quello importante, è l'autorità, diciamo, aeroportuali israeliane. Ecco lì è il bello della diretta, perché entrare e uscire da Israele non è facile. Ora, Israele vuol dare di sé un'immagine, lo dà al mondo, di una società democratica, e quindi non si può permettere di bloccare senza alcun motivo persone civili, non si dovrebbe permettere. E quindi per quello che riguarda me, non mi ha mai bloccato in questi viaggi, però me li ha fatti scontare. L'entrata e l'uscita da Tel Aviv, dall'aeroporto, è stato un dramma. Un dramma sia l'entrata, perché nonostante io abbia sia in valigia insieme ai materiali che nella mia borsa viaggio il lasciapassare del PCRF, che ha un visto da 26 anni, in cui è quindi un accordo con Israele in cui può accedere a dare aiuti umanitari, e quindi ho il mio nome scritto su un foglio con tutta la dicitura del PCRF, ce l'ho sia in valigia per i controlli, perché le valigie mi vengono aperte, sia dentro la mia borsa viaggio. Quando arrivo al controllo passaporti inizia il dramma, nel senso che vengo prelevata, messa in un ufficio particolare, fatto delle domande e soprattutto poi sì, controlli fisici, fisici, sono stata sottoposta a raggi X, gambe aperte, braccia alzate, come se fossi una criminale, insomma, e quindi non è veramente piacevole. Ho una fila particolare, io me ne sono accorta che c'è una fila particolare per chi fa i viaggi umanitari, non viaggi turistici oppure viaggi religiosi, perché abbiamo file particolari dove donne, perché chiaramente io sono donna, se no uomo, se è donna, uomo, vengono sottoposti a controlli, dove viene aperto di tutto, dai borsellini, cioè quello che è privato scompare veramente la cosiddetta privacy, e quindi sono momenti di grande tensione e anche di interrogatori. Una volta appunto mi sono anche messa a piangere dal nervoso, dalla esasperazione di sentirmi impotente di fronte a domande banali, se addirittura porto armi o se perché vado lì. quante volte sono stata lì e perché do, e do, porto aiuti umanitari ai palestinesi. Una addirittura mi disse: in Palestina non c'è turismo, per fare turismo si va in Israele. Come se in Palestina non ci fosse una storia, non ci fosse un passato, un pieno carico di storia e di cioè cose veramente vergognose. E quindi niente, bisogna prenderla con calma, tanto lo sai che sia in entrata e soprattutto in uscita c'è questa prigionia veramente di alcune, a volte anche di ore, e poi niente, poi ti lasciano passare perché non hai la fedina penale sporca, non sei un felinale, non hanno motivi perché non ho niente da dare. Comunque anche gli internazionali, anche persone come te che vanno appunto, sono però soggette, anzi ce l'hanno già raccontato anche altri, a questi controlli veramente... Certo. Snervanti, cercano di in tutte le maniere di non farti più tornare, di dire di farti cambiare idea, perché dice la prossima volta non ci vado più perché non ne posso più. Beh, sta in noi, è qui che nasce il nostro credo di continuare, certo. In maniera diciamo dimostra una tenacia, sì, una tenacia, cioè, un credo sì. Certamente. Ci hanno parlato anche, ora mi dilungo un po' su questo argomento, anche da parte dei militari israeliani, della distruzione di attrezzature che servono appunto negli ambulatori o negli ospedali, quindi danneggiamenti così gratuiti naturalmente, non hanno nessuna finalità se non quella appunto di... Te hai qualche esperienza, sì, certo, di questa... Certo, questo è... Questo viene fatto sistematicamente, ovviamente, negli ospedali diciamo, palestinesi, questo perché il loro scopo è quello di creare problemi a questa popolazione a 360 gradi, quindi colpendole diciamo, le attrezzature, le strutture sanitarie forniscono diciamo dei danni gravissimi al popolo intero palestinese, perché insomma colpire la sanità è un punto veramente nevralgico di un popolo. Io direi che siamo quasi alla conclusione, ti faccio solo un'ultima domanda. I tuoi colleghi qui in Italia che svolgono un lavoro simile al tuo, Come ti vedono? Come una persona strana che comunque ha questa passione, una passionaria, sì, quindi... Sì, diciamo che una pazza, no? Ah, ecco. Diciamo che c'è un misto, no? Un misto di, ora diciamo, no, diciamo, di follia e anche, diciamo, di stima, insomma, ricevo anche tantissime messaggi di stima, eccetera, però... Quello che io vorrei lasciare in questa radio, in questa intervista, è di continuare le missioni odontoiatriche. Ecco, io sono partita, ho dato il là, però ecco, c'è bisogno anche di altre missioni, anche in contemporanea, perché non c'è solo Nablus, cioè nelle città in Cisgiordania sono tantissime. E lì, ecco, il mio intento anche è quello di invitare chi fa questa professione, sia come assistente odontoiatrica alla poltrona, come odontoiatra, di creare, di avere il coraggio di creare, diciamo, queste missioni, che poi ci vuole poco, ci vuole tanta volontà, tanta forza e quindi tanto impegno e tanta disponibilità, però ci si riesce e si può fare. Quindi io sono... cerchiamo di creare come nelle favole, no? E buttare un sasso nello stagno in modo da creare cerchi concentrici e quindi essere in tanti e magari lavorare nella stessa settimana insieme, due a Nablus, due che ne so, a Ramallah, due a Gerusalemme, eccetera, eccetera. Hebron, dove si trova la possibilità? Allora, con questo messaggio di speranza, ma anche di invito ai colleghi, ai professionisti che possono veramente fare tanto. E chiudiamo questa intervista bellissima, piena di passione e di sentimenti. Ti ringrazio, Ave Mazzetti. Ringrazio te di questa proposta. Gianna, sono amica con Gianna da tanti anni e ti ringrazio veramente di questa tua idea. Per i suoi viaggi, per il suo impegno, per la sua passione per la Palestina, Ave è conosciuta in particolar modo a Viareggio, ma non solo, con il nome di La Palestinese. Ha creato anche un gruppo su Facebook molto interessante che vi invito a consultare, che si chiama Da Viareggio a Gaza. Questa era la nostra ultima notizia, con questo vi saluto e ci risentiamo mercoledì prossimo.